Siamo con Pierfrancesco Nacca, autore e attore dello spettacolo L'Aria, che sarà in scena il 22 giugno al Gay Village a Roma. Pierfrancesco, benvenuto. Grazie mille, buon pomeriggio. Come ce lo presenti? Come presentare questo lavoro? Innanzitutto dicendo che è dedicato a tutte le vittime degli abusi di potere da parte dello Stato. L'Aria è un testo appunto che ho scritto, siamo andati in scena diverse volte, diretto dalla regista Giulia Poletti. Ci dico tutte l'equipe che sì, appunto forma questa squadra dell'Aria, appunto Andrea Colangelo, Alessandro Calamunci Manitta, Gabriele Sorrentino, e appunto ci sono anch'io in scena. Insomma, questo spettacolo è molto importante, specie diciamo, questi ultimi giorni ci sono state le dichiarazioni di Laia Cucchi e anche dell'appuntato dei carabinieri Casa Massima. Insomma, è uno spettacolo di denuncia. Siamo orgogliosi e fieri di portare questo messaggio appunto in onore di tutte quelle vittime che purtroppo adesso non possono più commentare. Questa è la nostra denuncia artistica. Sì. Pierfrancesco, come è nato tutto? Il progetto è nato inizialmente da una committenza con un detenuto della casa circondariale di Taranto, e con il quale sono in committenza, e piano piano è nata l'esigenza di appunto mettere nero su bianco quelli che sono gli usi e i costumi all'interno di una struttura penitenziaria. E siamo stati in scena diverse volte nella capitale, e poi siamo stati anche in Puglia, e adesso ritorniamo appunto nella capitale, in una location che si batte per i diritti. E poi ci tenevo particolarmente a ringraziare Nicola Civinini per quanto riguarda le scene e i costumi, e poi ringraziare anche Paolo Rossetti per la grafica della nostra locandina. E ovviamente senza dimenticare mai il lavoro egregio che Roberta Savona e Carla Fabi hanno svolto come ufficio stampa. Sì. Per Francesco, hai fatto riferimento al carcere, hai fatto riferimento alla vicenda Cucchi, per scrivere il testo ti sei basato su episodi di cronaca? Sì, allora mi sono basato su appunto eventi di cronaca. Ho fatto una ricerca approfondita delle varie casistiche, non citando i nomi diciamo delle vittime, sì, ma semplicemente dedicandolo a noti che, come ricordiamo, sono Federico Aldrovandi, Michele Ferrulli, Giuseppe Uva, e ovviamente il caso più noto è quello di Stefano Cucchi, sì, ma come altre vittime che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e ricordare. La nostra è appunto una denuncia artistica, lo facciamo con il mezzo del teatro perché è il mezzo più diretto, è quello più d'assalto. Sì. E cerchiamo di smuovere così le coscienze. Pierfrancesco, come avete pensato la messa in scena? Ah, per quanto riguarda la messa in scena, questa domanda sarebbe più giusto rivolgerla alla regista Giulia Poletti. Sì. Un lavoro egregio, ci ha premuti per bene, abbiamo fatto delle prove approfondite, abbiamo lavorato sul personaggio, ci ha fatto fare dei training psicofisici dove appunto ci ha fatto rivivere le sensazioni che può vivere solo un detenuto con la libertà ristretta, appunto. Nelle foto di scena ne ho vista una con i letti a castello tipici di una cella. Esattamente. E, appunto, la scenografia è appunto è ambientata in due celle, e poi ci sarà appunto l'ora d'aria, che in gergo viene detta passeggio. E le fotografie di scena sono state scattate da Rita Di Giorgio. Sì, insomma, i letti a castello fanno subito carcere, quindi sì, volevamo riportare subito lo spettatore a riconoscere una location appunto che o è quella militaresca o è appunto quella delle carceri. Sì. Per saperne di più avete un sito internet, una pagina Facebook? non abbiamo un sito, noi cerchiamo, noi diciamo, siamo appoggiati alla compagnia teatrale Cesare Giulio Viola, che ci ha dato il permesso di andare in scena tutte le volte appunto che siamo stati in scena. Tutto ciò che riguarda questo spettacolo, le varie news sono sui nostri profili Facebook e anche sulla pagina Taranto Social Street, che è una pagina che, diciamo, che parla di teatro, di spettacolo, e ci dà particolare attenzione. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo L'Aria a Roma, al Gay Village, il 22 giugno. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Pierfrancesco Nacca. Pierfrancesco, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo, grazie, grazie tante. Ciao.